ricordo bene quale burocrate ha decretato la sua fine. Dentro una cella, dove sarà mai la sua buona stella? Ora che il tuo mondo senza rimorsi svende la sua vita, lo guarda nei tuoi occhi per sapere se è finita. Ma intorno è tutto buio ed è il silenzio che gli parla. Dice un vuoto, chiama morte, non ti resta che cercarla. Vuoto, chiama morte, non ti resta che aspettarla. Cercare sarà un innocente da sacrificare, sarete tutti vittima del vostro stesso male. Cercare sarà un innocente da sacrificare, sarete tutti vittima del vostro stesso male.